Mezzo secolo fa, il 21 agosto 1964, la morte di Palmiro Togliatti, uno dei massimi dirigenti dell'Internazionale Comunista e segretario dell'allora Partito Comunista Italiano. Quale, dopo le polemiche sul coinvolgimento o meno di Togliatti nello stalinismo, la valutazione su quello che rimane uno dei più rappresentativi esponenti politici del dopoguerra? Lo abbiamo chiesto allo storico e saggista Luciano Canfora. Togliatti ha portato un movimento di carattere insurrezionale, militare, come la Resistenza, dentro lo Stato, trasformandola in Stato nella Costituzione italiana. Ministro di Giustizia promulgò l'amnistia per i crimini di guerra. Fu un atto di pacificazione rispetto al passato oppure fu un errore, come dicono alcuni, rispetto ai crimini fatti dai fascisti? Tutte le guerre civili devono finire con un'amnistia, altrimenti diventano interminabili. Qualche ombra c'è nella vita di Togliatti? La cosa che gli è stata più rimproverata è l'articolo 7 della Costituzione che recepisce i patti lateranensi. Io continuo a pensare che invece sia stata una mossa di estrema saggezza per evitare un conflitto di carattere religioso addirittura nel nostro paese. Professore, lei è autore di diversi libri su Togliatti. Mi ha molto interessato la sua persona, soprattutto come statista. Di solito si pensa a lui come un rivoluzionario e indubbiamente da giovane anche egli ha pensato questo di se stesso. Ma quando comprende che la rivoluzione appartiene all'inizio del Novecento, egli si fa statista. Anna Maria Caresta per il GR2. Robin Williams